Do ragione, faccio troppo lo sbruffone. Sì. 7 anni in questa parte sono in piena depressione. Uh-huh. Ecco la motivazione di questa situazione. Yeah. Mi credono già un clone di un rapper in professione. Ed io paragonato a questo Fabri Fibra. Ma sta storia qui non va, chi sono io, lui già lo sa. Chi vibra, poi vedrà, la pubblicità. Sì. Date retta a noi signori, è investito in queste azioni. Garantisco di milioni tra i migliori compratori. Gizzi, armani, cappottoni, mi forniscono i verdoni. Tanto questi sono coglioni, fanno il muto pantalone. Questi CD costano troppo, gli indiani hanno risolto. Sì. Quasi quasi masterizzo il mio di nascosto. Credo nel contratto, beh magari svolto. Poi lo metto al culo ad ogni stronzo piscia sotto. In mezzo a questa gente io mi sento trasparente, ma continuo sempre solo ad urlare. Niente che mi possa danneggiare oppure provocare, mentre penso di imparare un qualcosa di speciale. Penso troppo e dal pensiero sciolto rispondo sempre sporco, ogni qua volta subisco un torto. Sì. Non mi contattare, non venirmi più a cercare. Vai a casa di chi vuoi, tanto lì ci puoi crepare. Tra le cose che vuoi e la vita che hai, non c'è tempo per stare a pensare. Gente come voi, poi quanta ne incontrerai, quindi seguimi e non l'ascoltare. La risposta perché non è di fianco a me, e vorranno tutti quanti negare. Ma credici se vuoi, se credici se vuoi, se credici se vuoi, se sono cazzi tuoi. Ed ecco son tornato, sono ancora più incazzato. Sì. Una vita a doppio strato perché non sono diplomato. Sempre più fatica a lavorare in questa vita, sembro quasi un'eremita, a braccetto con la sfiga. Io sottopagato, la vita mi ha sputato, tutto mi son sudato ed ecco il risultato. Io senza un lavoro, senza amici, più da solo. Poi se capita anche il bullo io lo mando a fare in culo. Sì. Ma resta calmo perché, ma resta calmo perché questi ce l'hanno con me, me. E sai che tu ascolti me, e sai che tu ascolti me. Mi dà il mio nome perché è che sono anni che io tento ma continuo fallimento. Su case discografiche di me hanno il tormento. A tutti sti bastardi che di me non ha rispetto. Un giorno io diventerò qualcuno, lo prometto. Sì. Allora sai cosa c'è, allora sai cosa c'è. Io me ne sbatto di te, mentre ti fa la mia ex, mentre ti fa la mia ex. Io me ne stupo al 3-3-3. E ho fan in tutta Italia che mi seguono a marmaglia. Cazzo sono sta gentaglia perché io dormo su una scaglia. Ma no, non valgo niente, lo dice troppa gente. Applausi, applausi, applausi per niente. Tra le cose che vuoi e la vita che hai, non c'è tempo per stare a pensare. Gente come voi, poi quanta ne incontrerai, quindi seguimi e non l'ascoltare. La risposta perché non è di fianco a te, e vorranno tutti quanti negare. Ma credici se vuoi, se credici se vuoi, se credici se vuoi, se sono cazzi tuoi. E senti piano piano questo ritmo che ti piace. Se drinki in doppia dose, se doppia dose. La moda è unica, è brutto vedere chi giudica. Io faccio sta musica contro la gente stupida. E Luca Pinna vorrebbe ricordare, mette Trenkin sta per ritornare. Sì. Io mi ricordo di te, io mi ricordo di te. Tu mi dicevi guarda lascia stare. E mi ricordo anche te, e mi ricordo anche te. Che avevi voglia solo di menare. Ho un occhio nero per te, ho un occhio nero per te. Un giorno tu me la dovrai pagare. Ma sto Trenkin chi è? Ma sto Trenkin chi è? Ma sto Trenkin chi è? Mai sentito nominare? Sarà la copia di un qualcuno originale, che poi su MTV non lo potranno mai passare. Se ringrazio la mia gente che mi acclama dal niente, anche se per sempre in fabbrica devo andare. Io devo lavorare, io devo lavorare, ma quale sfondare, io resto qui. Ok, ok, forse è meglio che metto la testa a posto, perciò vado a lavorare. Tra le cose che vuoi e la vita che hai, non c'è tempo per stare.